pronti? Ciucco. Come andiamo, come andiamo? Sei papiti. Addio, siete pronti, sono. E fa bene alla salute. Quello giallo. Bisogna fare movimento, bisogna camminare. Bisogna fare 15 km a piedi ogni giorno. Passano 5 km al giorno. E poi il medico di torno. Che ne faccio 2 al giorno già li faccio. Quando faccio la spesa e col peso poi faccio volanti in fatto di mare, croce, gambe, piedi. Dai così già. C'era. Che avanti se vuoi entrare. Sono da gara chi tanto le chi c'è il tracco. Vuoi dire che ha fatto 18 km a piedi. Ha capito? Poi tanto se scendeva dall'argine, aveva nelle aveva piedi. Eia. Dai. E poi non si è sentito per niente in giro. A chi, a Torre? Eia. Ehi, Torre raramente a quest'ora, Magari più tardi, sì. Sta passeggiando col cane adesso. Beh, se è stato portando a passeggio magari il cane. Ma lì non si è sentito, deve essere che sta dormendo adesso. Dopo che ha mangiato bistecche. Infatti. Beato, che mangia bistecche. Con Giaretta, Ehi! Si mangerà anche lui senz'altro. Non può mangiare sempre pasta. No, quello già lo so anch'io. Oggi ho mangiato pollo io, gambe di pollo, quindi due me l'ho mangiato. Avevo la pancia piena, mi sono piato un dice per digerire. Ma che, e come pure? Luca, libero, ci sono mangiato il gruppo e ancora non riposendosi. Oggi si è mangiato una cesta di ale di pollo. Una cesta? Che ti manca? E non ve la fate, manca a ritirare. Ed ecco il trascinato in la poltrona. E ora sta poco già appare, se già si sveglia. A meno che non stia facendo qualche antenna. Cosa ridda. Alessio, ciucu, per carità, adesso, ogni tanto ci parica, a Torello, Giamai, sono coricato. Qual è questo? Infatti, segnale basso. Io ti sento bene. Era Antonello di Parigi che l'ha chiamato. Antone! Ma non riesce ad arrivare bene al cantonello, per lo meno. Aspetta, lì a Dario vanno. Aspetta. Io sono stato 4 watt adesso. Andando. Vuol dire che vorrei il nuovo. Tutta delle magnate di sagarre che hai cucinato. Gatta, non so che vuoi farti vedere una cosa così rete, gatta, se la mangiato. Okay. commento, vai, fuggio io la vicino un commento. Non era un commento. Chi c'era un commento di fuggio, gatta, gatta, non ha consumato. Sì, ha un soldo un commento. Oh, ma strano, no, mi chiese a Luca Montanaro, ma ho operato la via. Già si chiamava e beh Parchiso è un po' strano però è già parecchino in vento così dai dai ho provato a farmi un po' di vecchio fino a chiedi in campagna e ci ho trovato un poco taglio la pizza e poi si fritte quasi quasi minestrone, quasi quasi altre cose, muore un virucino, oggi hai sa oriolo, gridati. E già vai, cacura c'ha me dai da bassi. Ah? Oh. Ah, te la voce però. Vabbè, avanti, tenta la manco. Tu sei invece di Bacchiccio, aria, Bacchiccio fa venta a molti vasi, dai ci passo. Caso fa venta, fa venta a passo, passo, e mi fa di, non li intendo quasi. E va se ci trova male però, ma, allontanato di sì. Ah, papà c'è il biluchetto? Va bene anche quello. A te dottore, sono tutti in giro so. Per carità, cazzo. Perché se domenica in casa cazzo andare in giro, cazzo. Attento, Gio Maria. E te bava. Ah, già mi ascolti qua. Per forza ti intendo. Pensavo che non mi sentivi con questo. Non ho capito. Pensavo che non mi sentivi con questo. No, ti senti abbastanza bene pure. Già va bene, dai. Tutto a posto? Ah, un po' di dolori ci sono, andi fuori un po'. No, ma sennò domani come faccio se vado a lavorare? Marco visita. Senta, ya. Oh, ya. Ehi, ma oggi è domenica, non si lavora, così che sei tranquillo. E se mi durano non si lavora domani come faccio? Ehi. Allora è un problema. Hai visto? I dolori sono come era quella. Gli splatter sono come i dolori che ci lascia li tiene, no? Anche i dolori sono che ci lascia li tiene. Infatti, e capirà se io devi venire. Va bene, dai, sono in quel Rix. Non ce ne sono tanto, no? Ci sto arrivando. Ok. Ok, d'accordo. Ci sentiamo ti. Sì, dai, sono all'ascolto anche sugli altri canali, sulla 27. Se si affaccia qualche uno, devo fare delle prove. Va bene. Un attimo il telefono. Bella mia. Anche la mia hai cantato. Ma che siete? Luca! Luca! Ma te l'hai fatto Antonio adesso? Ma ti dice adesso, cioè, siccome ce n'è uno, quello di Villanova dice ce l'ha uguale e voleva confrontare con quello là, per cui eventualmente dice mi telefona domani, mi ha detto. E io ho detto vabbè, eventualmente non ci sono problemi. E dice adesso lo voglio provare, confrontare con cui sia, come, perché ce l'ha preciso quello lì, capito? E viene a vedere un po'. E non riesce a rintracciarlo, appena che riesce a rintracciarlo dice e mi farà sapere. Dice tira, dice già sente, però dice che sente basso, capito? La sente bassa la radio. da ci siano così quei tipi d'apparecchio, mi ha detto Antonio, ma da ci siano quei tipi così, dice, c'è così, dice, va bene, come siamo rimasti, capito? Ok, no. E là si è acceso fino alle 8 qua. 1, 2, 3, 4, 5, prova. Ma chi io? È uscito. Ma chi sei? Gianni, chi sei? Frippalo! Tocca! Camari! Su! Dimmi! Sì che c'è Tore, prova a avere un po' Tore, se ti senti. Mi ha risposto poco fa. Ah! La distanza da Tore a te non è che sia molta, Vito Marino. Vabbè, cazzo. Antonello non si è fatto sentire, ma più tardi già entrerà, dai. Con Antonello la devo fare la prova, vedi? Infatti lui è più lontano, vediamo, va, più tardi magari. La faccia andate, già ti chiamo, va. Già è acceso. Ehi. Luca! To. Ma che apparecchietto era quello? È quello che mi ha sentito poco fa che ti ho chiamato. A me poco fa hai chiamato? Boh? Ma già chiamato due e non mi ha riposo. Evidentemente ci aveva il morso in bocca, non ci ha risposto di rispondere per quello. Che tutta la sera mangia il viale di pollo, a vino, e pesce. Già da Edo. E allora, si è fatto la carpa pure al rosso, a faccia nostra. L'ha fatto bene, se la già fa, l'ha fatto bene. Ho capito io. Ti manda le foto, capita, che a te non mangi niente, un prezzo, adesso ti fa vedere il volto. Mi foto noi non le mangiamo, me, che mangiamo carne, noi mangiamo. Dimmi tutto. Che andiamo, andiamo, bobo. Luca, ma in acqua non ci sei più entrato, no? Aspetta, va, ti manda l'arrucchimento di magna. Catta, tu i braccieri fa via, compreso, là. Ti non pensa via, è una graviglia, giuro. Pochi vera i gocci di pollo, ali di pollo, pesce, vera. Così che, ti puoi immaginare, così e poi dalla sabbassa, capito? Da poi verrà per la signorina catta che dice ok, capito, compreso, andiamo, vai, andiamo, catta, ma guarda che faccia catta, ho capito io, c'è una cosa, ti ha fatto vedere se la magnetto, a dire che fosse assaggiare agli amici catta, un po' carino, a dove fumi mi? vabbè. Che si può fa fazzi. E allora, Marino, catta, era così da ghida oggi. Il cosiddetto da ghida russo era oggi, capito, Marino. Capito. E ha fatto bene. Ho so che io. Vabbè, così dove pure fermo la faccia si travaglio, lui fermo, le fotografie, se la mangiamo noi la roba. Infatti, ma si ha fatto per me. Certo, ma non so chi io. Belle cose, cazzo. Andiamo, voi, andiamo. Vabbè, bello bene, e un pesce falato, sì. Eia. Anche più forte del radio. Oh, quello lì, andà bene. Insomma, così, eh. Eia. Comunque è più mezzo di chi si fa edu, è più mezzo di chi si fa edu. Tutto è più mezzo. Ah, ma che fai i tassini gialli, chi so? Ah, non andiamo d'accordo, eh. Ah? Andiamo d'accordo così. Niente. È bellino, C'è anche la ventolina dietro, visto? No, ho visto il frontale solo e basta. E farli vedere a passo il posteriore, lui. No, no, no, tanto c'è un come te, sarà come te che ci va giù il posteriore. No, lui fratello che ci va giù, che ci va giù è più meglio ancora di chi ci sta fatti vedere. Così è, ne andiamo e andiamo allora. Mi è piaciuto di più, capito? Mi è piaciuto di più. Oh, anche quello è bellino, là. Che c'è? C'è sognato di sta parecchio, però, diglielo lui. Ci vuole, c'è sognato. Che c'è? E perché metto nel sacco e dai che si è riposato, si è messo in movimento lui. Si può dire 9 del segnale, 9 e 10, boh. Vedrai che accanto a lei non si sente bene, perché si sente alla radio, si sente. Mentre che prima non sentivi quasi niente, se ti ricordi. No, già l'ascoltavo lo stesso, però come segnale si può dire che 9, si può dire. Il radio è forte. È forte, sì, cazzo. Mi sembra che sia da 8 a 10, mi sembra, mi sembra 10, mi sembra che sia quello lì. 10 sono là, e poi basta quella del computer, sai quanto è. No, ma va bene, lui, va benissimo, non so che è. Sono un precedente, ma te l'immagini, sognato se. Questo che c'ho io, penso che sta uscendo 5 o 10 fatti, una cosa del genere. Sto bongare al massimo, Uia. Ma è così, vai. Da 8 a 10 è una cosa del genere. Sì, esagerato, ma non fare esagerato. Sai che Antonello non si sia a fare una bionda? Può darsi pure. Sapeva la bocca asciutta e se la sta bagnando adesso. Infatti. Ah, se dove si vede, signor Bacchisio? Attenzione, signor Bacchisio! Ma lui, c'è qualcuno là! Io ho capito dove state dicendo. No, stavo dicendo a Luca, stavo dicendo a che stai innescando. Ma lui, dovrebbe essere tutti due uguali come uscita. Tutte e due uguali, quelle lì. Ehi, dai, ehi, dai. Attento, signor Bacchisio! Era mai detto la calafiore, ha mai detto un drogo, se sì, caro. No, io che tu hai già in casa Giulia, ci sarà mai detto un telegiornale, o va gente. Che sia così. E allora c'è gente, allora, Sarami tutto. Oh, hai visto, Vedo un po'. Meglio così. Aspetto! Ehi! Qua sono! Ah, cacchio sì! È flippero! Ci sarà Magnani l'urretto che è avanzato! Vabbè! Ci sarà Magnani l'urretto che è avanzato a mezzodì! Ah! Lui non ci sono più quelli lì! Allora vanno bene sto! Lui! Vanno bene, io non mi ricordavo! Forse così 20 o 25, una cosa del genere. L'importante è quello là che funzioni, capito? Quello interessa. Quell'altro già funzionava. Però quello lì si è svegliato e vuol dire che vabbè, meglio ancora, dai. Ecco, se il tuo, se vuoi il mio, ti do il mio, è proprio col mio. Ma uno segna, l'altro no. Questo è così. Che sia più basso e non segna per quello. Già entrerà più tardi, va. Prima non sentivo quasi nulla, così che mentre lei anzi invece sentiamo bene anche, certo. Per cui Se arriva a noi arriva anche bene Antonello, vedrai. Bellino, sì, più bello è. Quello là, infatti, quello là perché l'altro c'ha le alette di raffreddamento tutti in alluminio, c'ha più pesanti, perché questo c'ha la ventolina, c'ha. La ventolina mi sembra che c'ha, non mi ricordo bene, però mi sembra che c'è l'altro. Ma non ne ha, mi sembra che ce l'avesse, perché questo l'altro non ce l'hanno. Non mi ricordo bene anche dell'altro. C'ha le alette in alluminio, sono bianche. È come quello di Torre, Torre ce l'ha preciso a quell'altro. Invece quell'altro che ho io, che c'ha sette tassi gialli davanti, quello ce l'ha la ventolina. Io! Già è tutto pronto, devo rimettere in moto il motore. Adesso se ce la faccio entro in settimana vado e lo metto, e faccio la fotografia e lo metto in vendita. E ora battene in miro vemmo cosa vozzo. Anche domenica che anda esci e non si buisci. se non fosse un montanaro vozzo. Tutto qui fa di Gian Maria Cos'è? Tutto qui fa duia Pamela è pagosa. E chi hanno già di vicino si può uscire. Tanto se si va in che si lì. Un usebento non venuta. Ma spero lui. Tutta della bagnata che sa cosa, sì? Ma è sta signorina carina. Con un riso assato, Ira. Non mi lamentavo vivo, ma la moglie era un e vabbè, non mi lamentavo, dai. Sì, ma non mi lamentavo. Eiu! E un giro in paglietta in cima a farsi. Che domani devo impegnare la macchina, ma punirla in moto e pulsarla in officina. Ieri sera mi sei filmata a Città Mercato, mi sei filmata. Ho dovuto venire il mio Genova per vederla e mi ha detto è meglio spingerla. E lunedì me la porta in officina. L'ho messa in discesa, l'abbiamo messa in moto. È partito il motorino d'avviamento, si è bloccato. E pensami al pignira tu, c'è così callo così, oia! Chi su è? Ho provato in tutte le maniere a spostarla con la marcia e cosa, ma che non ne vuoi sapere, ha detto che è arrivata alla fine. Ha detto a ciamballo. Ehi, va. Metti nuovo, sei tranquillo. Sì, adesso vede lui. Mi porta dall'elettrauto a portare la macchina e poi me ne dovrò tornare a piedi. Troppo capito anche queste cose, ma già era un problema, là, l'importanza che si vanno da fare eventualmente, ma già si trova il pezzo già. L'ho trovato anche in cose in internet, su cose dei ricambi. E si trova, trovato l'originale suo proprio, ma non costa neanche molto. Okay. Ma il motorino, ma c'è a Sassari oppure devi ordinare? Speriamo che ci sia, l'altra volta ce l'aveva a mio genero. E si era, ha visto che dalla sua voce che non ha fatto più nulla, si era venduto. Vabbè. Ma non penso che non vi sia il problema a strappare un motorino, no, capito? Senz'altro ci sarà anche pure il mio occhio, dai. Sì. Che macchina era che non mi la metto? La Citroen era, mi pare, no? Citroen C4. Ma è la ciappa, vedrai che è la ciappa. Speriamo, che c'è la ciappia domani. Devo salire su all'Ipsi anche. Certo. Devo salire e invece, mi sa, se me la tiene secondo quanto me la devi dire, mi prendo il tra e salgo in tra. E avevo la Citra 1200, la busta. Quindi che si alzava, si abbassava, la 1200 era. aspetta, si è passata la cicchia del pezzo di tale. Sicuramente quella c'aveva due testate, una parte dall'altra, non è tutto completo, tutto insieme, no, una da parte dall'altra. Io ho comprato la cinghia, gliela metto, ma l'ha messa in marcia e ha sdruccato la tuvira. No, quelle vanno messe in fase, vanno messe, ecco cos'è, quando si faccia la cinghia la devi fermare e portarla dal meccanico. Quella voleva messa in fase, voleva messa. Ma io pensavo che era facile, e invece ha rifasciato un tutto, ha fatto tanti scizocchi che ha tutto altro vero si è fasciato, ha sbirato e se l'ha fatta buttare con direttamente a Zaffoni, allora Zaffoni era in voga. Infatti, mi vorrebbe accucciata che compare alla nuova, quelle quando si sfascia la cinghia, vuole messa in fase, per mettere la cinghia attorno, che vuole da me, ma che vuole girare da parte in sopra. Ma si sentono Luca, è parito Luca. Deve darsi che continuando a mangiare. Attenzione Bacchisio. Bacchisio, è bene te, dico, c'è gente. Sicuramente va a fare la gente. Attento a Torello. Mio Mario, chi sei andato a... Una bionda è andato. Potete che non la via, allora farà già a via Ferrucci a B. Sicuramente. Ma chi sono i tuoi abbonati, Givi? Via Ferrucci. No, non è via Ferrucci, no. Come si chiama? Dunque, la traversa di via Cattarucchino. No. La via della CGL, care. Abbiamo piazza d'Arme, ma che via è chissà? Sì, non me la metto, no, Giomari, che via è. Sì, però, sparito, ecco. Se la continua a mangiare solo un reto che ha lasciato a mezzodì. Pronto, ci sei? C'è nessuno? E tu chi è che sei? Bello bene. Cos'è? Chi è che sei tu, bello bene? Ti ho chiesto chi sei prima tu, Ok, ne chiesto tu chi sei prima a me. E io sono io, e tu chi sei? Io. E io sono io. Ah, piacere io, ben incontrato. Non sarà io. Ragazzi, io ho bisogno, e io in una conversazione. Io chi sei?